Raccontaci che cosa è successo in questo presunto esperimento di comunicazione web che secondo te è fallito in maniera clamorosa, però prima del commento andiamo ai fatti. Sì, i fatti sono questi. È circolato in rete qualche giorno fa questo hashtag, che è questo, diciamo, segnale, diciamo, per i meno bravi su Twitter, questo riconoscimento su Twitter, per passione. Per passione si candidava una persona alle primarie ed era un giovane militante del Partito Democratico. Si candidava alle primarie come avversario di Matteo Renzi e di Pierluigi Bersani, ed era un napoletano. Io sono napoletano, quindi mi è balzata subito la mosca al naso, ho detto: mamma, un napoletano e si candida, vediamo dove sta sta notizia. Il napoletano, il profilo di questo giovane era piuttosto simpatico, perché era proveniente da un quartiere rosso di Napoli, della zona orientale di Napoli, un quartiere a vocazione storicamente di sinistra, San Giovanni a Teduccio. Diceva che si candidava per una serie di ragioni anche belle, anche, diciamo, di passione ideologica. La cosa principale che uno fa poi a questo punto è cercare di verificare e capire se. Come mai? Quali sono i motivi? Magari contattare la persona e ci esce il pezzo, no? Ecco, mentre tu cercavi di verificare questa cosa, nel frattempo la cosa arrivava sulle agenzie, tra l'altro. Sì, arrivava sulle agenzie nel rullo di, penso di ADN Cronos, non vorrei ricordare male, che è visibile anche su Repubblica.it, quindi ha una visibilità nazionale. Arrivava la notizia di questo Peppe Maiello, Giuseppe Maiello. Contestualmente c'era un sito internet che pubblicizzava, su Twitter iniziava a rimbalzare, devo dire la verità, timidamente, perché la discussione sulle primarie è ancora abbastanza soft e poi è polarizzata su Bersani Renzi, ovviamente. Iniziava a circolare il nome di questo outsider e il ragionamento che ho fatto è il seguente: com'è possibile che da napoletano che si occupa di politica non sapevo di questa cosa, crisi drammatica? Alla fine la cosa più banale era che semplicemente era una panzana inventata, cosa, diciamo, particolare, a tavolino. Perché? Perché a Frattocchie, dove un tempo si incontravano i grandi cervelli del fu Partito Comunista, poi PDS, poi DS, eccetera, eccetera, ora ci sono i giovani, tra virgolette, aspiranti stregoni del Partito Democratico che cercano nuove strategie comunicative. E una delle esercitazioni che dovevano fare era quella proprio di, tra virgolette, inventare un qualcosa, inventarsi anche un candidato alle primarie, e hanno pensato bene di inventarsi il candidato, fare pure il comunicato e farlo girare, con buona pace di chi, evidentemente in buona fede, un po' e un poco, diciamo, peccando di eccessiva fiducia, non ha verificato la notizia e quindi non ha verificato l'esistenza reale di questo candidato, con tanto di sito internet, video e fotografia. Allora, si potrebbe dire, insomma, alla fine è un esperimento. Grullo che ci è caduto, direbbe un toscano, e pazienza. Tu invece non la vedi così, secondo te è un autogol per il Partito Democratico? Secondo me sì, perché al di là dell'esperienza comunicativa, il voler rincorrere la rete scimmiottandola dicendo: ecco, non credete tutto a tutto quello che si dice sulla rete, assolutamente non si può fare in questi termini. Perché far credere a un giornalista che c'è un candidato, mandare dei comunicati, è per me inquinamento di una fonte. E poi di che stiamo parlando? Hanno scelto proprio un cattivissimo esempio, hanno scelto un cattivissimo soggetto, scrivo sul blog, proprio perché hanno scelto un napoletano. E noi ci ricordiamo come siano andate le primarie a Napoli, e non vorrei che questo fosse un cattivo presagio. Voglio dire, da buon napoletano un po' superstizioso, lascio a loro, diciamo, i gesti apotropaici eventuali. Ciro, per chiudere, ma sto Peppe Maiello esiste davvero oppure no? Peppe Maiello esiste, è l'addetto stampa del Partito Democratico in un comune del Vesuviano, Santa Anastasia, e io spero che Peppe, con tutti i militanti della sua zona, si occupi più di quel territorio, che è un territorio ad altissima densità camorristica, piuttosto che di queste panzane. Grazie a Ciro Pellegrino, giornalista, blogger, lo trovate su giornalisticamente.net. Buona giornata, Ciro. Grazie a tutti voi.